Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E improvvisamente, usciti dall'ultima gola tra due ravvicinate colline, si parò davanti ai loro occhi una distesa azzurra sconfinata, che si dilatava a perdita d'occhio, che era più celeste del cielo, fino a congiungersi con esso. E questo, disse il papà, è il mare Tirreno. Mi chiamo Salvatore Nicosia, sono nato al centro della Sicilia in un piccolo paese agricolo, abito a Palermo e sono insegnante. Buon 31 di dicembre, oggi è l'ultimo giorno dell'anno, fate tutto quello che dovete fare prima di questa notte, a mezzanotte, così siete liberi di cominciare una nuova vita a partire da domani. Buongiorno a tutti, questa è Voi Siete Qui, questa è Radio 24 e io sono Matteo Caccia. Noi anche oggi e anche domani, ovviamente, sempre puntuali alle 16 dopo il GR, raccontiamo una storia. Le storie che abbiamo deciso di raccontare in queste vacanze natalizie sono storie di viaggio, abbiamo arbitrariamente deciso così, abbiamo chiesto di raccontarci storie legate a un viaggio e le stiamo raccontando una dopo l'altra fino al 3 di gennaio. La storia di oggi parla di viaggio, ma come spesso succede parla anche di un'altra cosa ed è una storia molto delicata e molto romantica per certi versi, anche se non si parla di un rapporto d'amore, ma si parla di un rapporto tra un padre e un figlio negli anni 50 nel cuore della Sicilia. Per certi versi ricorda un po' Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini, anche se quello era una persona che tornava in Sicilia, raccontava questo viaggio nello spazio e nel tempo. Qui ci sono due persone, un padre e un figlio, che prendono un treno e attraversano pochi chilometri, neanche un centinaio, per raggiungere la città, e questo viaggio lascia a loro la possibilità di conoscersi un po' meglio. Come dice lo stesso autore, probabilmente non sono mai più parlati così tanto come in questo tratto di viaggio. 349-238-6666, magari in questo momento siete in macchina con vostro padre, o in treno un pochettino più difficile in base, diciamo, al metodo d'ascolto della radio, ma se siete in viaggio, se state per partire insieme a vostro padre, raccontateci quell'esperienza, se l'avete fatta in passato, che cosa ha rappresentato per voi e per lui. 349-238-6666 o il profilo Facebook del programma, che Voi Siete Qui Radio 24, e quello Twitter Voi Siete Qui R24. Paola mi scrive ad esempio su Facebook: mio padre ogni estate andava a fare le immersioni nei luoghi più esotici e misteriosi che non avevo mai visto. Erano 30 anni fa e di posti tipo il Madagascar o la Polinesia francese si sapeva pochissimo. Quando compì 18 anni, fece il suo ultimo viaggio e mi portò con sé nel sud del Mar Rosso, su un barcone che costeggiava le coste del Sudan. Mi sentivo grande e importante. Mario ancora: mio padre non era solito viaggiare, ma quando morì suo fratello, molto giovane, dovette andare in Germania a prendere il suo corpo e portarlo a casa. Andai insieme a lui e mi disse cose che non ripeté mai più. 349-238-6666. C'è la storia di un viaggio, ma c'è la storia di un rapporto che ognuno vive a modo suo, ma in una certa epoca, probabilmente prima di 20 anni fa, il rapporto coi padri era sempre un po' misterioso, si parlava poco coi papà, ci si diceva poco l'un l'altro. Poi non è sempre stato così, però questa è l'idea e questo è quello che viene fuori dalla storia di Salvatore. Oggi parliamo di quello, parliamo di un bimbo, del suo babbo, che salgono su un treno e partono. Nessuno dei due era mai stato nella capitale dell'isola. Il padre perché il militare lo aveva fatto a Messina, dopodiché era tornato alla quotidiana occupazione campestre che prevedeva solo viaggi a dorso di mulo, di andata all'alba e di ritorno a sera inoltrata, dalle stelle alle stelle, come diceva lui. Per il consumo di abbondante minestra, seguita da immediato allettamento. Il figlio decenne perché mai gli era capitato, pur avendolo sempre desiderato, di salire su un pullman o su una macchina, tantomeno su un treno. E fu appunto il treno, il mezzo più rapido, più affascinante, più avventuroso che si scelse per recarsi nella capitale. Scopo del viaggio era andare da un dentista per affidargli l'estrazione di un dente che, malamente spinto da quello sottostante, procurava al figlio a intervalli di tempo tremendi dolori e che la madre si era rifiutata di affidare alle temibili tenaglie del locale barbiere Gulino, all'occorrenza anche cavadenti. Partenza all'alba, alle ore 6. Mezz'ora di cammino con una valigia in spalla per raggiungere la stazione. Biglietteria, arrivo dell'empio, mostruoso, rumoroso e fumante. sistemazione in terza classe, con sedili di legno. E inizio del viaggio. Mio padre era contadino e avevamo un rapporto fatto di poche parole, perché i contadini hanno un lessico molto limitato, molto circoscritto, e dicono soltanto le cose essenziali. Siamo un lessico essenziale di circa 500 parole. Una stazione dietro l'altra, il figlio andava segnando i nomi sull'ultima pagina del sussidiario che aveva portato con sé, per recuperare, come gli aveva detto il maestro, la lezione saltata in quel giorno di vacanza. Santa Caterina Vallermosa, Marianopoli, comunemente detta Marianobili, Villalba, Vallelunga, Valle d'Olmo, Marcato Bianco. Man mano che il treno procedeva, il padre si era sciolto a svolgere un ruolo didattico che non gli era familiare e che non aveva mai svolto nei confronti del figlio, incantato al finestrino a seguire la rapida fuga degli alberi in direzione opposta, mentre il treno stava piantato a terra. Villalba è il paese di Don Calò, diceva, Vallelunga del professor Gugino. Marcato Bianco non è un paese, ma una grande masseria. Che cos'è una masseria? È un grande caseggiato dove stanno i contadini, il soprastante, i campieri, i muli, mucche, pecore e cani. Vedo che il dente non ti fa male, meglio così. Il treno gli fa bene al dente. A Rocca Palumba, proseguiva, ci fermeremo una mezz'ora perché debbono caricare l'acqua e il carbone. Lo sai che il treno va a vapore. E in effetti, dopo una lunga sosta, il treno si riavviò in una nube di vapore e iniziò un tortuoso percorso in discesa, seguendo da presso il corso del fiume Torto, che ora compariva alla loro destra, ora alla sinistra, senza mai scomparire del tutto. E poi, improvvisamente usciti dall'ultima gola tra due ravvicinate colline, si parò davanti a loro una distesa azzurra sconfinata, che si dilatava a perdita d'occhio, più celeste del cielo, fino a congiungersi con questo. «E questo è il mare», disse il babbo. «Il Tirreno, come lo chiamano. Grande, grandissimo». Sai che cosa disse l'asino la prima volta che vide il mare? Minchia abbeveratoio! Che voleva dire che quello sì che era un abbeveratoio, non le piccole gebbie da lui frequentate piene di girini e di lippo. Il figlio era rimasto senza parole di fronte a quello spettacolo di incommensurabile grandezza e pensava alla figura misera che aveva fatto quando i maestri, era successo 4 volte nei 5 anni delle elementari, gli avevano assegnato il tema «La prima volta che vidi il mare». Che poteva scrivere se non l'aveva mai visto? Quindi si era lanciato in descrizioni penose, completamente inventate. Arrivati alla stazione della capitale, dove giunsero alle 10, 98 km in 4 ore, rimasero frastornati dal gran numero di treni che arrivavano e partivano, dalla folla di persone, dai continui annunci dell'altoparlante. «Sai che ti dico?» disse il babbo. «Dal dottore ci andiamo subito, con tutta la valigia. Così ci togliamo questo pensiero, questo dente, e poi siamo belli tranquilli. E poi andiamo dalla Zavita, posiamo la valigia, mangiamo qualcosa e dopo pranzo andiamo al cinema». «No, non partiamo stasera, partiamo domani. Una volta che siamo in città, ce la dobbiamo godere». It was one of those days. The dead were digging upwards through the earth. I saw ghosts in the rain. Ghosts in the ice, ghosts in the airport carousel. Little Richard on the radio, coffee in my cup. I flew in from Lisbon with a song to wake you up. A song to wake you up and a kiss to wake you up. I flew in to hold you in my arms. Alle 10:30 si erano già tolto il pensiero del dente. Questione di un minuto, da non accorgersene neppure. Altro che quel barbiere gulino, che quando gli capitava qualcuno sotto i ferri, le urla si sentivano in tutto il paese. Depositata la valigia dalla Zavita, che fu felice di vederli e di conoscere il figlio, sei tuo padre sputato. I due si avviarono a Ballarò. Comprarono 1 chilo di sarde fresche e 4 pani, di quelli candidi e morbidi, e bighellonarono ancora per qualche ora in attesa dell'ora di pranzo. «Vedi, qua a Palermo, diceva il babbo, non è come da noi, che nessuno ruba. Qua bisogna stare attenti, perché se compri, per esempio, un vestito e te lo avvolgono in un pacco, quando arrivi in paese e lo apri, puoi anche trovarci verdura o roba vecchia. Qua ti fanno fesso senza che tu te ne accorga. Ti tolgono le scarpe mentre corri, imbrogliano, truffano. Se prendi una carrozza per andare in un posto che non conosci, ad esempio, ti fanno fare il giro di mezza città e poi scopri che era lontano solo 200 metri. La casa della Zavita era un appartamentino buio e maleodorante in vicolo Giardinelli, che fungeva per tutti i compaesani da ostello, ristorante, albergo diurno, scalo provvisorio e persino semplice gabinetto. Lì giunti, la Zavita attaccò a friggere le sarde, a cuocere la pasta, a preparare gli altri cibi portati dagli altri avventori e imbandire la tavola per se stessa e per tutti. E tutti assieme avevano mangiato tutte quelle vivande mettendole in comune. La sola Zavita si era riservato il compito di lavare i piatti, fare ordine in cucina, mettere da parte qualche cibo e assegnare il posto letto a quelli che come loro sarebbero rimasti anche la sera. «Potevamo anche partire dopo pranzo, ma voglio portarti al cinema», disse il papà, «che non ci sei mai stato e vedrai quanto ti piacerà. Qua vicino mi hanno detto che ci sono 7 cinema, dobbiamo solo scegliere». Alle 16 erano davanti al cinema Bomboniera, alle 18.30 davanti al Bellini, 2 film in un pomeriggio, cosa mai vista. La prima volta al cinema fu appunto durante quel viaggio, dove abbiamo visto con mio padre 2 film in un pomeriggio. Uno era Il cammino della speranza, che era una cosa sulla, un film sulla crisi delle miniere di zolfo in Sicilia, e il secondo era un film americano. Ne parlarono a lungo. «E così hai conosciuto pure il cinema», disse il papà, «che da noi non è ancora arrivato. Anche a me sono piaciuti molto, tutti e due. Il Fiume Rosso è una grande americanata, pensa, 10.000 vacche tutte di proprietà di uno solo, che attraversano migliaia di chilometri. Qui da noi chi ne ha 10 o 20 si sente ricco, e quando gli fa percorrere 10 chilometri per portarle alla fiera di Larcara è già molto. L'altro invece, Il cammino della speranza, è più come siamo noi. Lo sai che le miniere di zolfo stanno chiudendo tutte, vero? E sai perché? Perché lo zolfo non si vende più. E tutti gli zolfatari emigrano, come nei film. Poco ci manca e chiuderà anche la campagna. Certe volte mi viene in testa di emigrare, come hanno fatto già tanti villani verso il continente, ma dico, ma che cosa ci vado a fare io? Alle 8 erano già a tavola, con la Zavita e i pochi avventori rimasti per la notte, a mangiare i resti del pranzo. Prima di coricarsi nel letto, quello grande assegnatogli, lasciarono sul tavolo una piccola somma per la Zavita che non ne voleva sentire ad accettarla. Durante la notte, nel sonno, il figlio ebbe l'impressione che, sia pure per poco tempo, il padre lo avesse tenuto stretto a sé, cosa che non era mai accaduta. Presero il treno delle 4, con un buio che si poteva tagliare col coltello. Ebbero ancora 4 ore di vita insieme e di parole. «Stanotte hai dormito profondamente», disse il papà, «e non hai sentito le cimici che c'erano nel letto. Mi hanno dato certi morsi. Vedi quante cose abbiamo fatto in 24 ore. Se uno viaggia, come ho fatto io quando ero militare, il tempo si allunga. Ma se uno zappa dalla mattina alla sera, dopo un anno gli pare che sono passati 3 giorni. Quando sarai grande, devi viaggiare molto», gli disse il papà. «Altrimenti la vita ti finirà troppo presto, come succede a me. Se qualche altro dente ti farà male, verremo di nuovo assieme. Ci sono tante altre cose da fare. Non so se sperare che il dente ti faccia di nuovo male oppure no». Arrivarono in paese alle 8. Il figlio fece appena in tempo, prima di andare a scuola, a recitare a memoria alla madre tutte le stazioni attraversate, prima nell'ordine di andata e poi in quello di ritorno. Il padre, dopo aver messo il basto al mulo, affrontò il grande disagio di fronte alle persone che le vedevano andare in campagna alle 9, neanche fosse un benestante. Quando anche a distanza di molti anni ripensava quella giornata, il figlio aveva la percezione che il padre gli avesse parlato in quelle 24 ore più che nei 10 anni precedenti e più che nei 10 anni successivi. Una malattia lo aveva sottratto al lavoro, costringendolo a rimanere a casa dalla mattina alla sera. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Ogni giorno, insieme alla storia che ci manda l'autore e ascoltatore che sia, noi chiediamo anche una fotografia. E prima ancora di vederla e trovarla sul sito di Radio 24, dove la trovate in questo momento preciso, io avevo sperato che la fotografia di Salvatore fosse così. È una fotografia di quando lui aveva probabilmente l'età della storia, quindi è in posa, è in bianco e nero, chiaramente la fotografia. Lui è pettinatissimo, ha la riga da una parte, ha una giacca doppio petto, è rigido e impettito, come a dire: pronto, scattiamo! Pronto, Salvatore? Sì, sono qua. Ciao, buongiorno. Salute. Come stai? Bene, bene. Senti, anche oggi che abbiamo scelto di mandare, anche oggi che siamo in onda il 31 di dicembre, abbiamo scelto di mandare in onda questa storia, di raccontarla perché, boh, non lo so, perché comunque parla di un viaggio e del tema delle puntate che stiamo affrontando in queste vacanze di Natale, però in realtà parla di un rapporto tra padre e figlio, giusto? Sì, sì, proprio così. Torniamo un attimo proprio alla storia, Salvatore. Dove abitavate? A pochi chilometri da Palermo, in realtà. No, a 90-100 chilometri da Palermo, nel cuore della Sicilia, cioè nella zona del latifondo. E come si chiamava il paese? Il paese si chiamava Valle Lunga e si chiama tuttora. Si chiama tuttora, immagino. Sì, sì, cioè sono alcuni paesi, sono della provincia di Caltanissetta, Valle Lunga, Villalba, alcuni noti di questi paesi, noti per la grande incidenza del fenomeno mafioso. Mm. Ma anche nel tuo paese era così? Sì, sì, era la mafia del feudo, che poi si trasferì in città negli anni 60, si trasferì in città, per la speculazione edilizia. Che era, diciamo, proprio l'origine, adesso io ne so veramente poco, Salvatore, non voglio dire stupidaggine, sì, però l'origine della mafia era quella, no? Il feudo, la protezione delle persone che ci lavoravano. Diciamo, per tenere in vita rapporti sociali che rischiavano di esplodere, la funzione per reprimerli era affidata alla mafia, d'accordo con i grandi latifondisti. Che anno era esattamente l'anno di questo viaggio? Il 1950. Il 50? L'anno del viaggio, era il primo viaggio che io facevo. Della tua vita proprio? Fuori dal quel paesino. Salvatore, posso chiederti quanti anni hai adesso? Ne avevi 10? Ora ne ho 73. Ne hai 73. Sei stato o sei ancora insegnante? Sono stato insegnante. Cioè sei in pensione in questo momento? In questo momento sono in pensione. E sei andato a vivere nella capitale, giusto? Sì, sono andato a vivere nella capitale dopo la terza media. Cioè c'era soltanto la scuola elementare in questi paesini. Però sì, poi c'era un prete spretato che ci dava le lezioni per la terza media, e poi abbiamo fatto l'esame da esterno e poi mi sono iscritto al liceo in uno dei licei di Palermo. Senti, Salvatore, poi sono stato sempre. Questo vale probabilmente un pochettino per tutta l'Italia degli anni 50, no? Nel senso che se io parlavo con mia nonna, che adesso non c'è più, lei mi raccontava di com'era il nord, nella provincia di Novara negli anni 50, e mi diceva era un altro mondo. Quindi questo vale un po' per tutta l'Italia. Però la sensazione, da come la racconti, è che fosse un altro mondo completamente staccato, un paesino nel cuore della Sicilia, proprio un altro luogo rispetto anche solo a Palermo. Bisogna pensare che allora la distanza tra una città, allora in epoca pre-globalizzazione, pre-televisione, la distanza culturale, economica tra un paesino interno e una città era enorme. Oggi non è più così, perché i fenomeni viaggiano rapidamente, rapidissimamente, ma allora veramente c'era i paesi erano arretrati di 20-30 anni rispetto alla città. Ci torni ancora al tuo paese? Hai ancora casa? Ogni tanto. Hai ancora casa o parenti? No, ho la casa lì e soprattutto sono residente lì e vado a votare tutte le volte che ci sono le elezioni. Ah, ok. Senti, invece c'è questa cosa che dici del tuo papà che racconta di lui meglio di mille altre cose. Quando lui dice che tornate in treno, siete partiti alle 4, lui va a lavorare nei campi alle 9 ed è in imbarazzo. È l'imbarazzo perché i contadini si alzavano prestissimo, dalle stelle alle stelle, come dicevano loro stessi. E quindi prendere il mulo e andare in campagna alle 9, alle 10 era una cosa troppo diversa, troppo dissonante rispetto alla classe sociale che rappresentavano. E anche quella delle parole, cioè dire molte parole, come dicevo poco fa, i contadini avevano un lessico assolutamente limitato. Io dico 500 parole, e per giunta queste parole le usavano con parsimonia, e la singolarità di quella giornata, di quelle 24 ore trascorse con mio padre, era che per la prima volta io vedevo che mio padre parlava e poteva parlare di molti argomenti, di molte cose, anche del cinema, così. E tra l'altro ti porta a vedere questi due film di cui parli, che sono due film completamente diversi, no? Un americano, un western, giusto? Sì, western. E l'altro invece un film italiano che parlava di una cosa molto, molto attuale, che era la crisi delle zolfatare. Sì, era proprio quello, e cominciava allora anche la grande crisi delle campagne, perché le campagne furono letteralmente svuotate di lì a pochi anni, cominciava allora. Difatti mio padre diceva, vedrai che chiuderanno anche le campagne. Certo. Ma era i primi sintomi di un fenomeno che sarebbe esploso poi negli anni 50, cioè quando gli addetti all'agricoltura passarono dal 52% al 13% in pochissimi anni, cioè significò che si riversò alla Fiat a Torino, a Milano, a Lansaldo per esempio, a Genova, si riversarono centinaia di migliaia di persone, fu un grande genocidio. È una trasformazione radicale, questi paesi si sono svuotati. Il paese dove mi riferisco io aveva allora, quando io andai a Palermo per la prima volta, 7200 abitanti, sì. Oggi ne ha 3500. Immagino. Ma ora ci sia un incremento delle nascite. 3500. Io ti devo salutare, purtroppo, Salvatore. Scusami, tu sì, che insegnante sei stato, di lettere, di storia? No, di greco. Di greco, ah, ok, quindi al classico di Palermo. Sì. Come si chiamava il tuo liceo? No, io sono il mio liceo si chiamava Umberto, okay. Umberto I, sì. Io voglio ringraziarti ancora per questa storia e voglio salutarti con una frase che ha detto tuo padre, che sembra la più giusta che io abbia mai sentito riguardo il viaggio. Se uno viaggia, come ho fatto io quando ero militare, il tempo si allunga, ma se uno zappa dalla mattina alla sera, dopo un anno gli pare che sono passati 3 giorni. Io ti ringrazio davvero tanto, Salvatore, e ti auguro un buon fine 2013 e un buon inizio 2014. Ringrazio io anche voi. Ciao, a presto, grazie. Arrivederci. Ciao. 349-238-6666, dobbiamo chiudere, ma voglio leggere qualche ultimo messaggio che è arrivato riguardo ai viaggi che avete fatto con vostro padre. Edoardo, andai al mare una settimana con mio papà, alle isole Tremiti, perché mia mamma era rimasta a casa ad accudire mia nonna malata. Fu una settimana di totale libertà, avevo 14 anni e lui mi disse, fai quello che vuoi ma torna a casa la sera. Ci rivedemmo praticamente al traghetto del ritorno. Questa è l'ultima puntata di questo anno solare, io quindi vi do appuntamento a domani, banalmente, che sarà il 2014. Io però voglio ringraziare Radio 24 che ci ha mandato in onda anche durante tutto questo 2013. Voglio ringraziare quelli che sono di là dal vetro, che sono sempre di là dal vetro: Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni, che rappresenta un po' tutti i tecnici che stanno di là a gestire il mixer. Niente, buon 2013, buona, finitelo bene, fate un'ultima fine di pomeriggio, una buona serata e cominciate bene il 2014. Ringrazio quelli che rimangono ad ascoltarci, scaricate i podcast, raccontate storie, fatelo per il 2014. Soprattutto ringrazio Salvatore, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Paolo, vivo a Milano e la storia di domani è la mia e parla di una vacanza in Belize. Questa è la mia storia e io sono qui.